A Rock FM sono le 8 spaccate. Sveglia! Ti svegliamo anche quest'oggi con Good Morning Starshine dal musical Air. Buongiorno anche a voi che vi svegliate solo adesso, Fortunelli. Starshine, the earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine, you lead us along, by love and me as we sing our early morning singing song. Baby, look, loopy, dimmy, nubby, nubby, la la la la la. Saba, simmy, saba, looby, abba, nabba, leeby, lo lo. Quei giorni che l'ascolto non l'ho ancora imparata, mi sono messo malissimo. Good morning starshine, è così che da lunedì mattina rinizia la seconda ora di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, vi siete persi una grande prima parte di questa trasmissione nella quale quelli che erano già svegli, non fortunati come voi, si sono permessi di votare tramite SMS la possibilità o meno di riascoltare Hey Judita, quindi Hey Jude dei Beatles in versione italiana, tradotta e interpretata dal maestro Frick Cantoni, andata in onda qualche giorno fa, e quella mente geniale di Spadino quest'oggi voleva riproporla. La votazione è andata, hanno vinto chi la voleva risentire, quindi tra poco ve la puppate. Intanto un nuovo gruppo d'ascolto, sono sempre molto attento ai gruppi d'ascolto che scrivono via SMS, un buongiorno biascicato dal gruppo d'ascolto dei giocatori notturni di Risico. Post scriptum, i litri di liquido altamente infiammante e i cannoni dalla bocca fumante servono a rendere più realistico il gioco. Vi fate delle piccole molotov da un tavolo all'altro, molto bene. Tra l'altro segnalo che, avendovi chiesto di votare Hey Judita sì, Hey Judita no, in molti state proponendo nuove canzoni da tradurre, quindi vi volete male voi, proprio in partenza. Vabbè. Alle 8.30, ricordo l'appuntamento col test attitudinale, abbiamo ancora parecchie stupidate da combinare qui, sulle frequenze di Rock FM, tra pochissimo, allora ufficiale. Hey Judita! Wow! Janis Joplin! You know, I always be right. James Joplin, Cry Baby. Hai capito? Che leone del disannuncio che c'hai, Spadino, sotto le mani, eh? C'è l'Ariele a augurarvi il buongiorno. È forse il bello di questo, di queste due ore di radiofonia mattutina Rock FM. Il nostro bello che abbiamo momenti altissimi, proprio belli, da pelle d'oca, come Janis Joplin con Cry Baby, e poi roviniamo tutto con i nostri interventi. Però forse è anche per questo che un po' ci volete bene. Noi comunque, ruffianamente parlando, ve ne vogliamo un monte. Ci siamo, sto per partire con Ei Giudita, non prima di avervi avvisato che Carlo della tabaccheria, l'amico che ci aiuta con i numeri dell'otto, ci fa sapere che, come al solito, dando dei numeri rock non sono usciti. E per peggiorare la situazione, da quello che ho capito, abbiamo sfiorato un ambo sulla ruota di Bari. Carlo, tranquillo, entro Natale qualcosa vinciamo. Oh, ti rendi conto, tra l'altro, Carlo, dovessimo azzeccare un terno secco? Cioè, secondo me andiamo studio aperto, un servizio su di noi lo fa. A Rock FM azzeccano un terno. Ok, ci fanno una pubblicità, ragazzi. Va bene, occupiamoci di Ei Giudita, è andata, l'avete voluta voi, vi siete tirati la zappa sui piedi, io non c'entro più niente. Questa è la registrazione di cosa è andato in onda mercoledì in diretta. Avevamo due chitarre, c'era Freak e ha interpretato Ei Jude in italiano. È terribile la cosa, lo so, lo capisco, però la volete risentire, io ve la ripropongo. Segnalo però che secondo me il suo valore artistico, questa canzone, ce l'ha in due momenti apici. Quando Freak, in un attimo di interpretazione del quale ancora mi compiaccio col maestro, sentenzia Giuditta, e poi nel ponte, Ehi Giuditta, ogni volta che hai una pena, Ehi Jude, tu frena. Secondo me queste sono cose che solo il maestro può azzeccare. Va bene, quello che è andato in onda mercoledì, Ehi Jude dei Beatles in versione pane, burro e rock and roll. Buon ascolto. Ehi Giuditta, non essere pessimista, prendi una canzone triste e rendila migliore. Ricordati di lasciarla penetrare nel tuo cuore, allora potrai cominciare a renderla migliore. Ehi Giuditta, non aver paura, tu sei fatta per cercarla e per trovarla, e nell'istante in cui la lascerai penetrare nella tua pelle, allora comincerai a renderla migliore. Ed ogni volta che senti una pena, ehi giù, tu frena, non caricarti tutto il mondo sulle tue spalle, perché sai bene tu Giuditta che è uno sciocco chi fa l'indifferente e finisce per rendere il suo mondo ancora più freddo. All together now. Na na na na na na na. Na na na na. Hey Giuditta. Hey Giuditta. Na na na na na na na. Na na na na. Hey Giuditta. Giudizio, Giuditta, Giuditta, non deludermi. Adesso che l'hai trovata, vai a prenderla. E ricordati, Giuditta, di lasciarla penetrare nel tuo cuore. Allora potrai cominciare a renderla migliore. Giuditta, tu aspetti qualcuno per suonarla e non sai che quel qualcuno sei proprio tu. Sì, Giuditta, tu la suonerai. Il ritmo che ci vuole è già dentro di te. Giuditta, non essere pessimista. Prendi una canzone triste e rendila migliore. Ricordati di lasciarla penetrare nel tuo cuore e allora potrai cominciare a renderla migliore. Na na na na, na na na. Ehi Giuditta, con pathos, pathos. Na na na na na na na. Na na na na, hey Giuditta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Na na na na na na na, hey Giuditta. Na na na na, hey Giuditta. Giuditta, Giuditta, Giuditta. Na na na na na na na, na na na na, hey Giuditta. Giuditta, Giuditta, Giuditta. Na na na na na na, hey Giuditta. Na na na na, hey Giuditta. Ehi Giuditta, from Bologna, Roberto Fricantoni, Milano. E from Milano, lettera aperta a Paul McCartney e a Ringo Starr, scusateci, siamo degli sciocchi, come dici Spadino? No no, a Yoko Ono non gli ho... Yoko Ono, non me ne frega niente di Yoko Ono. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live, but if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Let Die, Sir Paul McCartney con i suoi Wings, un po' anche per farci perdonare di Hey Giuditta. È ufficiale, settimana prossima ne facciamo un'altra, la redazione ha così deciso, quindi sono fattacci vostri, iniziate ad affezionarvi a qualche altra trasmissione radiofonica mattutina perché noi andiamo avanti così. Però per farvi capire quanto in realtà sia colpa di voi, sia colpa vostra, l'italiano oggi, ragazzi, è andata. In realtà sia un po' anche colpa vostra, qualcuno scrive spettacolo, qualcuno scrive c'ho la pelle d'oca, bravi. E qualcuno scrive siete un balsamo per il mio cuore nero, Francesco. Un saluto anche al Fanello che è la prima volta che ci ascolta di mattina. No, dai, incredibile, grandissimi, ora so che il mondo è più bello con Rock FM, bravo. Enrico da Livorno commenta ancora la telefonata a Dome la Muerte, collega col quale stasera metterò i dischi a Colle Salvetti, a Livorno, e lui sta dormendo, io no, non ha risposto, dai, oh amen, lo sgriderò stasera. L'autista cinico, eccolo che è tornato, un fedelissimo della prima stagione. Milano è un caos, ma io me ne frego trottellellando con il mio bus, ascoltando Rock FM. Ci siamo, tra pochissimo abbiamo l'appuntamento con il test attitudinale. Vi ricordo, studiate, studiate, studiate, perché il 30 settembre distribuiremo le prime patenti da vero rocker. E ve lo ricordo, non le regaliamo, le diamo solo a chi risponde giusto al test attitudinale. Un saluto anche a Francesco da Firenze, quello che albeggia con la Stratocaster prima di entrare in fabbrica. Solo voi e il buon Fabione mi date la forza di svegliarmi alle 6. Complimenti. Un saluto anche al buon Fabione Treves, che da quando abbiamo ripreso la stagione, non si fa più sentire, Spadino. Chissà perché. Forse perché non ci vuole più bene. No. Lo so io perché, ma non ve lo dico. Il Duca Bianco alle 8:20. Rilassatevi, tranquillizzatevi con Rebel Rebel, che tra pochissimo c'è il test attitudinale. State lì! scatole, devo confessare che a volte mi perdo nei miei pensieri e immagino, vago con la mia mente, i pensieri si rincorrono uno dietro l'altro e penso quanto sarebbe bello un programma radiofonico che facesse un quiz rock. Delle domande per scoprire se siete dei veri... sarebbe bellissimo. Colpo di scena. In che senso? Prima cosa le faccio notare che lei oggi mi ha chiamato Roberto e non Frick o dottor Frick. Mi ha dato del lei e ho fatto bene. E ha fatto benissimo. Secondo? Perché noi vogliamo mantenere le distanze. Assolutamente no. Sì. Seconda cosa, sì. La considerazione da lei testé esternata, sì, è straordinaria. Dovremmo farlo tutti i giorni a quest'ora su Rock FM. Sa come potremmo chiamarlo? No. Il quizzone rock. Aspetti, non è male, però possiamo forse, sì, migliorarlo. Tipo, aspetti, il test, mi aiuti? Sì, il test attitudinale! Fantastico! Lo facciamo? Facciamolo! In diretta, facciamolo. Così? Facciamolo! Una domanda! E riveliamo anche brevissimamente, sì, che davvero stiamo preparando, sì, e la stiamo realizzando sul serio. Proprio in questi giorni? Proprio in questi giorni la patente di autentico rocker. Non dica nulla, vado con la domanda. Serie Chi ben comincia è a metà dell'opera. Oggi parliamo dei primi passi mossi da Lemmy Kilmister, indimenticato leader dei Motorhead. I primi passi mossi ovviamente sulla strada del rock and roll. Ricordate cosa faceva Lemmy prima di diventare uno dei personaggi più leggendari della storia del rock? Tre soluzioni possibili, vada! Come al solito, restringiamo il campo per aiutarvi. Tre sono le ipotesi che vi sottoponiamo. Risposta numero uno. Faceva, naturalmente, Lemmy Kilmister il roadie per Jimi Hendrix. Risposta numero due. Il segretario della Apple, la nota etichetta discografica dei Beatles. Risposta numero tre. Il cuoco di Roger Waters dei Pink Floyd. Ehi tu là fuori, sai cosa faceva Lemmy Kilmister prima di diventare Lemmy Kilmister? Il roadie per Jimi Hendrix, il segretario della Apple o il cuoco di Roger Waters? E anche tu, ragazzina, signorina, che segui puntualmente Pane, Burro e Rock and Roll, hai preso nota? Stai ragionando davanti al tuo block noter? Ma diamo anche le soluzioni? Le soluzioni a fra poco, direi che le risposte le diamo dopo. Ottimo tormentone. Yatta tira tira tira tira tira tira.